Melog. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Squadra! Una volta per tutte, in questo battaglione il riposo si fa così. Gamba sinistra allineata a quella destra. Moderatamente divaricate, d'accordo? Qui ci teniamo molto. Chi se lo dimentica si becca subito 2 giorni di consegna. Squadra! Quanti dei signori oggi in ascolto avranno avuto un brivido di nostalgia a sentire uno di questi momenti scellerati di un film di Marco Risi, Soldati 365 all'alba, un film dell'87 che racconta quello che è il retroscena crudo ma realistico della Naja. Sì, perché fino al 2005 si faceva la Naja, la facevano in pochi, devo dire. Io, come ho più volte ricordato, sono dei pochi che non è riuscito a evitare di farla. Ho fatto di tutto, non voglio fare la verginella o il puro, ho fatto di tutto per evitarlo, ho messo in mezzo preti, generali in pensione, amici di famiglia, politici scalcinati, ma mi è toccato, sono partito a fare il soldato. L'ho fatto tardi, ero già grande, quindi ero un signorino universitario, mi sono ritrovato improvvisamente in un mondo che non sospettavo esistesse. E ricordo quell'esperienza, la ricordo, devo dire, con nostalgia, sì, perché alla fine il giorno che mi sono congedato dalla caserma dei lancieri di Montebello a Roma, abitavo a Perugia, non è che ero imbucato, ero fatto un carro abbastanza faticoso a Savona di 2 mesi, poi mi hanno mandato alla scuola trasmissione a Napoli, San Giorgio a Cremano, era l'anno del terremoto, quindi ho passato altri 2 mesi a spalare per creare container per i terremotati. I bambini ci tiravano le sassate così perché eravamo il loro divertimento. Beh, riparlo oggi di Naja perché recentemente ne ha parlato il segretario del PD Renzi, si è parlato di rendere nuovamente obbligatorio, questa volta il servizio civile per i ragazzi, non soltanto su base volontaria, cioè, ma facciamoli fare almeno 1 mese all'anno, poverini, così almeno capiscono cos'è il mondo, 1 mese all'anno. Voi pensate che io sono stato fortunato, ho fatto soltanto 12 mesi di servizio militare, ma fino a anni prima si faceva addirittura 18 mesi per tutti, era abbastanza duro e faticoso. Era scioccante, uno shock che oggi chi ha l'età da servizio militare non si rende conto, che a un certo punto si interrompeva l'università, che ancora faceva l'università, e si interrompeva la vita di relazioni, la famiglia e tutto, e si entrava in una dimensione parallela, una dimensione fatta di assurdità, fatta di settimane per imparare a fare il cubo, cioè a piegare il materasso con le lenzuola perfettamente tese sopra, i guai se quando passava il caporale di giornata non ci rimbalzavano sopra 100 lire, erano giorni di consegna. Consegna significava che non potevi uscire, poter uscire era l'unica occasione si aveva per fare la fila davanti a una cabina del telefono con i gettoni in mano e chiamare casa, chiamare la fidanzata, avere qualche barlume della vita si lasciava alle spalle. Ma devo dire che già ai miei tempi erano in pochi a farlo perché i più si imbucavano o facevano appunto il servizio civile. Ma oggi vorrei lanciare una proposta che mi ascolta, surreale, ma se oggi poteste voi decidere sulla linea di quello che ha proposto appunto il segretario del PD, doveste ridare un'idea di un momento della vita obbligatorio di ogni ragazzo che gli serve appunto a farsi le ossa, a essere un vero uomo, non sareste d'accordo di reintrodurre la leva militare obbligatoria? 800 24 0024. Maschi davvero. È facile a parole atteggiarsi a maschi eroici, pronti al combattimento, virili e sprezzanti del pericolo. È facile dichiarare a voce alta di essere pronti ad armarsi e partire. È facile postare selfie con giacconi militari fighetti e mostrare addominali anabolizzati. Ma per dimostrare di essere veri uomini, dovete dimostrarlo sul campo. Dunque voi, veri maschi, non potete fare altro che aderire alla nostra campagna per il ripristino della Naja obbligatoria. Spine, fatevi avanti. Non smaniate per tornare a fare le guardie, a pompare, a fare il cubo e la stecca? Nanni, buongiorno. Buongiorno. Prima telefonata, arrivata subito. La mia chiamata alle armi, come vedo, ha subito un effetto. Nanni, come la pensa? Ma io ho fatto servizio civile nel 1987, e tra parentesi ne ho fatti 20 mesi e l'ho fatta a Perugia, tra parentesi. E che hai fatto a Perugia di civile? Che c'era da fare? Era in un ufficio del comune di Perugia che aveva una convenzione col ministero. Poi mi è piaciuta così tanto che ci sono rimasto a vivere altri 20 anni. Immagino che è stato un anno di tortura, è stato per te, figurati. A stare in un ufficio in una città che era tutto un passeggio, a fare niente. Imbucato, non si fa così. Sono stato 20 mesi, ma devi fare la naia, fare le pompate, fare le guardie, fare le altane, alzarti la mattina prestissimo, portare gli zaini, pulire i fucili, subire le angherie dei nonni. Non hai fatto tutto questo. Non sei un vero uomo. No, è che dobbiamo fare. 20 mesi me li sono sorbettati. Sei a passeggiare con le studentesse per il corso Vannucci, figurati. Che tortura sarebbe stata. All'università per stranieri a bazzicare da quelle parti. Ti sei imbucato quindi, come tanti. No, vabbè, io resto dell'avviso che oggi come oggi potrebbe essere un'esperienza ottima il servizio. Ma oggi guarda, il senso di questa missione è, dobbiamo finalmente dare un senso a tutti quelli che si proclamano veri maschi, veri uomini, spacca montagne, sventra papere, pronti ad armarsi e pronti a mettere tutte le donne in fila una dietro l'altra e coprirle come coniglie. Ecco, fate uno sforzo in più e dimostrate veramente quella che è la scuola di vita che forgerà voi veri maschi. Ma se ancora non l'avete capito, rimando la scheda della nostra chiamata alle armi. Maschi davvero. È facile a parole atteggiarsi a maschi eroici, pronti al combattimento, virili e sprezzanti del pericolo. È facile dichiarare a voce alta di essere pronti ad armarsi e partire. È facile postare selfie con giacconi militari fighetti e mostrare addominali anabolizzati. Ma per dimostrare di essere veri uomini, dovete dimostrarlo sul campo. Dunque voi, veri maschi, non potete fare altro che aderire alla nostra campagna per il ripristino della naia obbligatoria. Spine, fatevi avanti. Non smaniate per tornare a fare le guardie, a pompare, a fare il cubo e la stecca? Dove sono tutti quelli che scrivono, che ho il culo chiacchierato, che sono appecoronato ai buonisti? Datevi da fare, forza, fatevi volontari per prima, mettetevi in prima fila. Pronto, parto, anche se ho 40 anni, 50 anni, 60 anni. Voglio andare a fare il militare, voglio calcare il duro suolo delle caserme, voglio dormire anch'io preoccupato che qualcuno mi tiri una secchiata di pipì addosso la notte. Fate anche voi questo grande sforzo, dimostrate di essere veri uomini. Armando, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Allora lei da che parte sta? Io sto dalla parte di coloro i quali, io ne ho 76 di anni e nel 1960 ero in Germania, ero ricoverato e una domenica mattina mi sono visto aprire i finestroni, le porte tutte e una squadra di giovanotti del quinto anno di liceo con i grembiuloni, spazzoloni, secchi e tutto pulivano pavimenti, cessi, bagni, docce, vetri, ogni cosa. Alla mia domanda mi dissero una domenica al mese noi dobbiamo fare questo servizio civile per il nostro popolo. Questa è la mia testimonianza. Servizio civile, però noi stiamo facendo un passo avanti. Sul servizio civile non abbiamo nessun dubbio, è una cosa ottima, è una grande iniziativa, è una maniera per cominciare a sentire quella che è la crudezza della vita quotidiana. Volevamo fare uno sforzo in più, volevamo fare un gesto di ribellione, un gesto che probabilmente può sembrare controcorrente, ma visto che in questo momento c'è una così veemente spinta verso il ritorno alla polarizzazione totale, al vero maschio che si veste mimetico e che se ne importa così poco di quelle che sono le convenzioni, che è pronto ad armarsi e riempirsi la casa di pistole e fucili, andate a fare un po' di tirocinio in una caserma, andate a pulire i fucili dalla mattina alla sera, vedete quanto è bello, divertente, pesante, quanto è bello caricarsi sulle spalle un contenitore di munizioni, quanto pesa portarselo a piedi. Andate a fare il servizio militare. Giuseppe. Sì, sono d'accordo con lei. Oh, finalmente, cominciamo a segnare dei punti. Ci vorrebbe per raddrizzare la schiena all'Italia un servizio militare obbligatorio? secondo me, più che raddrizzare la schiena all'Italia, a questi ragazzi di oggi che sono molto mammoni e soprattutto troppo sono bravi a fare la guerra davanti a una PlayStation. Poi che ne so, vanno in giro, si picchiano per strada, fanno bottigliate, fanno risse come accadeva tantissimi anni fa, quindi hanno una gran voglia, diciamo, ma grandi ormoni da sfogare, quindi secondo me un po' di vita militare gli farebbe bene. Ma gli farebbe bene soprattutto dal punto di vista del comando, sarebbero, diciamo... Conoscerebbero la disciplina? La disciplina, quella che ad esempio hanno insegnato a noi quando facevamo il militare. Lei che anno ha fatto? Di che classe è? Io sono del 63, ho fatto il militare purtroppo grande, 27 anni, perché andavo all'università. È perché si studiava, quindi, anche io l'ho fatto con l'età. Studiava, certo. Quindi ho fatto il militare, ero il primo figlio di 3 fratelli, tutti e 3 militari, di cui il secondo è un maresciallo, per cui è rimasto lui. Lei dove l'ha fatto il militare, in che caserma? Io l'ho fatto, ho fatto 2 mesi vicino Roma. Sì. Perché ho fatto il VAM, quindi sì. Vigilanza. Poi a Viterbo l'hanno mandata a fare alla guardia agli aerei parcheggiati. E poi ho fatto 10 mesi in Sardegna, Decimo Manno. Ah, Decimo Manno, una bella, bel postaccio era. Beh no, Decimo Manno era una caserma, diciamo, la migliore tra tutte quelle in Sardegna, perché chi è andato a Perdas de Foco si tagliava le vene. Sì, giravano voci terribili. Era una caserma punitiva. I comandanti dicevano: non c'è acqua da bere, bevetevi la vostra pipì, cose del genere, non so se fosse vero. Vabbè, non so se è tanto vera sta storia, però molta gente che andava lì, insomma, era un po' un deserto intorno, c'era un piccolo paesino e non c'era nulla, mentre Decimo Manno, caserma militare dove c'erano anche americani, inglesi, tedeschi e italiani, per cui era una caserma abbastanza attiva, tiro standard degli aerei, quindi c'era sempre un movimento, c'era sempre gente che andava e tornava, quindi c'era molto movimento. Poi il fatto che gli americani, come al solito, sono sempre quelli che hanno di tutto, hanno le migliori, stanno meglio di tutto. Beh, era l'altra faccia della luna. Lo fanno come lavoro loro, per loro il militare è un lavoro. Comunque lei quindi ha un ricordo positivo, lei è per il ripristino. Stiamo segnando, perché io segno ogni volta i pareri del pubblico per capire se l'azzardo del nostro dubbio in realtà trova consenso. Giuseppe, lui Antonio. Buongiorno. Antonio. Io penso di essere stato uno degli ultimi scaglioni, 8° scaglione 98, a fare il militare obbligatorio. E nonostante io sia uno che, come dire, sono contro le armi, sono contro, ovviamente, contro la guerra, però ho un bel ricordo del militare, perché quello che mi ha insegnato, da premettere che vengo da una famiglia con un padre abbastanza severo, che ringrazio comunque di questo, però la disciplina, cioè il fatto di, mi ha insegnato la pazienza il militare, mi ha insegnato ad aspettare. Il motto era muti e rassegnati. Ok, questo erano i motti magari di qualche anno prima, perché quando ho fatto il militare io anche queste, gli slogan piuttosto che gli atti di nonnismo, non si diceva muti rassegnati. Muti rassegnati non si diceva più. No, non si diceva più, però... Devi morire, nemmeno devi morire. No, quello sì. Ah beh, devi morire, sì. No, ovviamente, quando tu hai fatto il soldato, quindi ti ricordi, no? Quando stavi per una mattina intera a marciare sotto il sole, sì, e chiedevi, posso andare a bere? No. Perché? Certo. Perché no? Perché no, chiaro. Posso andare a fare pipì? No. Perché? Perché no? Così, normale. E magari chi ti diceva, chi ti dava questi ordini erano ragazzi che avevano 2, 3, 5 anni meno di te. Sì, soprattutto avevano la terza media, ero già laureato. Esatto, comunque. esatto. Io mi ricordi di ragazzi che, come dicevi prima, qualche istante fa, dopo l'università hanno fatto il soldato, che piangevano tutte le notti, perché insomma si ritrovavano in un mondo dove, ecco, c'erano sti ragazzini di 18 anni con la terza media, che non è indicativa la terza media, e il livello di cultura che avevano, sì, sì, che era comunque basso. Ma io ho conosciuto persone che parlavano a malapena l'italiano, quello devo dire, non pensavo, esatto, che esistessero più, però c'era. Esatto, però ecco, cioè, queste cose lì ti insegna, ti tolgono tutti i punti di riferimento, quello che servirebbe. Soprattutto, ragazzi, ci si rende conto sulla varietà del mondo, perché oggi, soprattutto frequentando i social network, uno pensa che il mondo sia tutto omologato, esatto, siano tutti uguali, tutti esatto, siano come noi. Trovo esatto, che sia una buona cosa. Quindi più che l'addestramento virile all'uso delle armi, il panneggio con la tuta bimetrica che toglierebbe molte voglie oggi ai ragazzi di mettersi pantaloncini camouflage perché fanno figo, ci sarebbe anche questo. Si conosce il mondo, si conosce la varietà della composizione della nostra società. Roberto. Buongiorno dottor Nicoletti. Le dico solo una cosa, io lascerei la macchina qui in tangenziale e andrei in questo istante a rifare militare. Dove l'ha fatto lei? Io l'ho fatto alla scuola militare di paracadutismo a Pisa. Poteva firmare, poteva restare lì a fare l'ufficiale. Ecco, io sono rimasto anche un anno in più, sono andato in Bosnia, è stata un'esperienza incredibile. Quindi lei l'ha fatto seriamente il militare, non è che... L'ho fatto seriamente, che sì, spazzava le caserme. Perché lì a Pisa le assicuro che nel settimo, io ero un settimo 94 e non mi hanno regalato nulla, è stato un addestramento duro, però lo rifarei in questo istante perché ad anni penso ancora ai miei compagni come degli amici, a dei fratelli. E secondo lei sarebbe riproponibile oggi una leva militare obbligatoria? Ma riproponibile sicuramente, magari con altri toni, con altre forme. Però insegnare ai ragazzi di oggi, io adesso ho 43 anni, insegnare ai ragazzi di 18, 19, 20 anni cosa vuol dire aver bisogno del compagno, aver bisogno del tuo amico che è a fianco e dovertela cavare in ogni circostanza sarebbe una cosa importante. Quindi rimane ancora l'idea che possa esserci una vita militare che debba essere almeno vissuta per un periodo della vita da tutti, perché in fondo è formativa, fa parte della formazione necessaria per ogni maschio. Maschi davvero. È facile a parole atteggiarsi a maschi eroici, pronti al combattimento, virili e sprezzanti del pericolo. È facile dichiarare a voce alta di essere pronti ad armarsi e partire. È facile postare selfie con giacconi militari fighetti e mostrare addominali anabolizzati. Ma per dimostrare di essere veri uomini, dovete dimostrarlo sul campo. Dunque voi, veri maschi, non potete fare altro che aderire alla nostra campagna per il ripristino della naia obbligatoria. Spine, fatevi avanti! Non smaniate per tornare a fare le guardie, a pompare, a fare il cubo e la stecca? Via! Si sente più la ritirata, nemmeno il contrappello e la donata, e non si mangia più nella gavetta, perché l'abbiamo data la polvetta. Congedanti, un passo avanti, un'altra firma noi vogliamo fare, e non c'è firma, e firmamento, questo è il momento che a casa andiamo. Oddio, il ritmo e la base è quella di Allarmi siamo fascisti, però diventa Allarmi siamo congedanti, è una delle tante canzoni della naia, venivano vendute in dei dischi 33 giri e si ascoltavano con il giradischi a casa con la fidanzata, i rari giorni di licenza, sì, perché poi i tempi morti come si occupavano, ricoprendo le penne Bic con del filo colorato di seta, scrivendoci il nome della fidanzata, sperando che non ci mettesse troppe corna mentre stava a casa. 800 24 00 24, ripristinereste la naia visto che vi piace tanto vestire da militare, fare gli spacconi, chiedere di armarvi, far vedere che voi siete quelli che possono sfidare il mondo. Beh, tornate a fare il soldato se non l'avete fatto. Giovanni non c'è. Massimo. Pronto? Massimo. Pronto? L'ascolto. Allora, no, io sono contrario, non ho fatto male il militare e fondamentalmente reputo estremizzo, che è stato un po' il male dell'Italia, perché la concezione dell'onismo, la concezione dell'imboscarsi. Cioè la cosa importante era dopo i 3 mesi del CAR trovare il posto dove non far niente. E che è poi stata l'abitudine dell'italiano, cioè trovare i posti dove non lavorare, far poco. Quindi lei la vede in maniera diversa, vede come un'attitudine poi all'imboscarsi nel posto di lavoro, nella vita, nelle responsabilità. Ma è stato così, escluso il caso del personaggio che ho sentito prima. Sì, quello ha un corpo speciale, faceva il paragrafo. Poi allora vista, bene, è giusto, e capisco il fatto della vicinanza dell'amico e tutto, ma lì no, era che se io inculavo l'altro, io andavo a casa, al sabato e la domenica andavo a casa e avevo il permesso, perché il maresciallo che doveva rifare l'impianto elettrico cercava l'elettricista. L'elettricista aveva i suoi buoni interessi andare a fare lavoro, perché poi andava a casa con la licenza 4 giorni a lavorare. Guardi, lei Massimo dice una cosa molto giusta. In realtà, quello che tutti ci siamo resi conto, al di là degli scherzi che facciamo le guardie, che in realtà il servizio militare era una cosa paradossale, perché i soldati che andavano a fare la leva obbligatoria servivano a mantenere le caserme, che a loro volta servivano a contenere i soldati. Cioè noi servivamo per pulire le caserme, per verniciare le caserme, per spazzare le caserme. Le caserme servivano per contenere noi. E a un certo punto si è interrotto questo circolo vizioso. E l'assurdo è che adesso abbiamo delle caserme vuote che potrebbero essere utilizzate per scopi civili e non vengono utilizzate. Chi lo dice? Ne uno accanto a casa mia, sa quanti ragazzi autistici starebbero bene lì a far cosa? A Pavia, in tutte le città. Non le molla, l'esercito, il Ministero della Difesa non le molla, perché... Io sono passato settimana, 15 giorni fa, perché sono dovuto andare e passare davanti a Piazza Novelli. Io ho fatto aeronautica e raccomandazioni, l'amico dell'amico, sono riuscito, sono finito a Linate, l'ho fatto direi bene e male, perché poi mi sono dovuto fare 60 giorni a Brescia in un aeroporto dove non è una roba esasperata, e avevo in mano 30 giorni di malattia e il passaggio a Linate. Ho rinunciato i 30 giorni a casa e sono andato. Beh, lei pensi Giampaolo, che io ho fatto anche la licenza sangue, cioè mi sono fatto cavare il sangue, già ero abbastanza anemico per starmene un'altra 3 giorni a casa, mi sembra, licenza sangue. Andrea. E là, buongiorno. L'ascolto. Niente, io sono in mezzo tra quello che ha chiamato prima di me e quello prima ancora, cioè per me è stata molto utile, sarebbe molto utile per chi lo farebbe in maniera quasi volontaria, cioè magari... ma oggi lo fanno volontari, chi lo fa volontario oggi fa il militare, oggi abbiamo un esercito specializzato su base volontaria. Ok, però una naia per chi ha combinato qualcosina invece di andare dentro da troppo giovani potrebbe essere un sistema, le spiego. Per esempio, io ero una persona, penso, viziata della piccola borghesia. A me la NAI ha insegnato, per esempio, a stare con gli altri di altre estrazioni sociali, mi ha portato al limite, quindi, visto che ero viziato, mi ha insegnato che i miei limiti erano molto più alti. L'ha insegnato a mangiare qualunque cosa, a pulire dei gabinetti schifosi? No, io non ho fatto quel tipo di NAI, cioè ho fatto anche alcune cose di quello che ha detto. Ma per esempio, io ho perso 12 kg in un anno di NAI, io non ho fatto l'imboscato. Siete che era ipernutrito, era a casa sua? No, non è quello, è che noi lavoravamo veramente molto, io sono andato a casa 10 volte in un anno intero, ok? Io non l'ho fatto... Una volta al mese è un bel ritmo, no, scusi. No, succedeva che si andava 2 volte in un mese e poi niente per un mese o per 2 mesi. Così era infatti, i primi 3 mesi non ci andai mai. Guardi, tutti i miei compagni di classe delle superiori, io li ritrovai dopo ed erano tutti enormemente ingrassati perché andavano ad imboscarsi e non facevano niente. Io invece ero capitato male, non ero un paravolontario, ero uno che è cascato in una... No, io devo dire, guardi, gli ultimi mesi sono riuscito a imboscarmi in fureria, è stata una pacchia. Prima ero portato anche la branda in fureria, praticamente avevo l'ufficio, casa, bottega, tutti i giornalini zozzi che sequestravamo da caporale nelle camerate, li portavamo in fureria, quindi era l'equivalente oggi di avere YouPorn H24 dentro casa. Però direi che questo è il tipo di leva che si potrebbe evitare, mentre un tipo di leva tipo quello che ho fatto io in certe situazioni potrebbe anche essere utile, per come ero fatto io, cioè persone che avevano bisogno forse di una spinta in più, e ne abbiamo tanti. Sì, però lei ha detto una cosa molto giusta, Andrea. Serviva per mescolare le classi sociali. Oggi si vive in classi sociali che sono dei recinti omogenei. La gente non si mischia soltanto poi per fare a botte davanti alle discoteche, quelli di Roma Nord contro quelli di Roma Sud, quelli della periferia contro quelli del centro, quelli di una squadra contro quelli dell'altra squadra, quelli che si dicono di destra contro quelli che si dicono di sinistra. Ma una volta invece ci si mischiava molto di più. Almeno era un anno in cui vedevi in faccia persone che normalmente la tua vita raramente dava occasione di vedere. Giovanni. Ah, buongiorno Nicoletti. Sì, l'ascolto. Sì. Io ho avuto la fortuna di fare l'ausiliario nei Vigili del Fuoco e quella lì è stata una grande scuola di vita per me. Avrei una proposta da fare più che altro. Questi giovani che passano tutto il giorno a smanettare in internet queste cose qui, sarebbe bello fargli fare un po' di attività in civile, appunto, questa leva, chiamiamola tra parentesi, leva civile. Beh, comunque fare il Vigile del Fuoco è molto di più che fare un servizio civile, proprio essere operativi anche in situazioni che richiedono un grande impegno fisico, un grande impegno di volontà, è un po' come fare il militare in certe cose. No, io parlavo per me che avevo fatto il militare nei Vigili del Fuoco ed ero andato anche in Friuli. Quindi non è che è stato con le mani, non è che ha salvato i gattini che hanno salito sull'albero, è stato operativo no. In situazioni molto gravi, complesse. Ma infatti sono stato molto contento di aver fatto quel servizio lì. Però quello che le dicevo è di mettere questi giovani qui a fare, rendersi utili. Ad esempio, visto che noi siamo una nazione che ogni 3x2 c'è un'alluvione, un terremoto, e preparare questa gente a fare i campi, a dare un aiuto alla Croce Rossa. Quindi diciamo un servizio militare che dia degli strumenti anche di azione civile in caso di calamità. Questa è una proposta alternativa. Ci fermiamo un istante, 800 24 00 24. Vedo che ancora però galleggia nell'immaginario generale l'idea che ci vorrebbe comunque un anno formativo anche su un piano reale, concreto, tirarsi sulle maniche e imparare a fare qualcosa che richieda sacrificio e richieda anche rischio. Ehi, proprio tu John Wayne? E io chi sarei? Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Chi è quel lurido stronzo comunista che Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte? Ah, non è nessuno, eh? Sarà stata la fatina buona del cazzo. Vi ammazzo a forza di ginnastica, vi faccio venire i muscoli al buco del culo. Che ci potrete succhiare il latte senza cannuccia? Allora, sei stato per caso tu, brutta stronza? Signor no, signore! Brutto pezzo di merda con la faccia da verme, scommetto che sei stato tu! Signor no, signore! Signore, l'ho detto io, signore! Però, senti... Abbiamo tra noi un attore comico, il soldato Joker. Io ammiro la sincerità. Sì, tu mi piaci, vieni a casa. Cara Pulvetta, dimmi una cosa. Cosa facevi 3 mesi fa? Andavi a spasso con l'amorosa e non pensavi a fare il soldato. Fare il soldato in artiglieria. Poi mamma mia, ma... Certo. La vita militare, per chi non l'ha fatta, è un universo che è collocato tra enormi luoghi comuni. Da una parte l'addestratore dei Marines, Palla di Lardo, di Full Metal Jacket, che è crudelissimo, cattivissimo, d'altronde da strumenti di sopravvivenza a soldati che andranno in territorio operativo. E poi le canzoncine della Burba, le canzoni della Naia, che danno l'aspetto più pantofolaio, più da retrobottega di fureria, più da maresciallo che inquatta le forme di formaggio. Ecco, che era poi in realtà la Naia che abbiamo conosciuto noi. Ferdinando, buongiorno. Buondì, niente, io ho fatto 32 anni di servizio e rispetto a questo mi sento un po' una retorica delle regole, di un mondo più serio. Cioè 32 anni, lei era militare a tutti gli effetti? Sì, tuttora sono... quindi cos'è, un ufficiale o un sottufficiale? No, un maresciallo. Maresciallo, sottufficiale e superiore. Quindi, e quindi questa retorica un po' delle regole, dell'onore, di un periodo formativo, sinceramente lo vedo poco, è cambiato tutto quanto, cioè le carriere, il tipo di attività, oggi persino il volontario che fa 8 anni di attività rischia di poi andare a casa senza arte né parte, alla fine della fiera questa è stata e oggi lo sarebbe ancora di più una manodopera secondo me a basso prezzo, veramente. veramente laddove. Ma noi lo dicevamo come divertente provocazione, innanzitutto. Sì, no, ma è una provocazione. Mi rendo conto che un maresciallo che sta da 32 anni dentro le caserme non ne può più, veramente non ne può più, di battere i tacchi, di fare il saluto, di dovere le scarpe lucide, dei corridoi, di quell'odore tipico da piede che c'è in tutte le caserme. A un certo punto sarà scocciato anche lei, questo me ne rendo conto. Ora così, no, no, diciamo che io ho definito questa una stanchezza estetica, se vogliamo, no, laddove non è una questione di stress psicofisico, diciamo, ecco, diventa un pochettino un po' tutto vecchio, però al di là di quella che potrebbe essere la mia impressione, di fatto io tra tutti quelli che hanno chiamato, che continuano a chiamare, ecco, vorrei vedere quanti al di là della canzoncina, al di là dell'amico che si è trovato o del posto bello dove uno praticamente ha fatto il servizio, al di là di questo poi o chi ha preso la patente A, B, C, queste cose un pochettino particolari, non trovo. Però Ferdinando Maresciallo, è chiaro che per lei ormai entrare in una caserma è come andare a timbrare il cartellino al catasto, è la stessa cosa, è un impiegato del catasto, è chiaro che non ne può più. D'altronde il senso di avere una divisa, doversi mettere tutte le mattine, avere delle mostrine, avere un basco, entrare in organizzazione militare, ha senso se c'è la guerra. E in effetti quando non c'è la guerra il militare si sente una persona inutilizzata, è come il comandante Drogo nella fortezza Bastiani, state lì a aspettare che arrivino i tartari e i tartari non arrivano mai. Giampaolo. Eccomi. Allora? Allora, dunque, da un punto di vista strettamente morale, però parliamo in astratto, sì, non passa giorno senza che non veda qualche soggetto di cui direi ti farebbe bene un anno di servizio militare. Lei l'ha fatto servizio? Sei anni, a tutti i militari di leva, di firma, diciamo. Vabbè, io volevo fare il concorso per l'Accademia, poi non sono riuscito, sono entrato come ufficiale di complemento e mi sono trattenuto successivamente. E non aveva senso continuare, no? Poi dopo un certo punto... No, aveva anche senso, ero io che ero troppo impaziente, ma queste sono considerazioni personali che sfuggono, anzi sarei in pensione da 5 anni da colonnello se avessi avuto il buon senso di trattenermi. Quindi avrebbe avuto comunque una pensione assicurata, cosa che oggi è già una rarità. Sicuramente, invece in realtà lavoro ancora, ma questo è un discorso che va sul personale. No, quindi il maresciallo che ha parlato prima, alla fine non è che poi tanto da lamentarsi rispetto probabilmente ai suoi coetanei, no? No, direi di no, soprattutto al giorno d'oggi, puoi avere uno stipendio ed è una bella cosa. Tranquillo, sicuro, non te lo tocca a nessuno. Appunto, al di là di ciò comunque. È così. Ecco, c'è un discorso però, dal punto di vista pratico, non possiamo riproporre una protesi del genere perché riattare tutte le strutture militari dismesse costerebbe troppo, effettivamente. Però c'è un fatto, lo vedo dal mio punto di vista, il servizio militare, specialmente per quelle nazioni che come la nostra non hanno una lunga tradizione, come può avere ad esempio la Gran Bretagna nei confronti del suo esercito, della sua marina, ecco, e serviva a cementare il rapporto fra istituzione e popolazione. Per cui io vedrei attualmente una costituzione di una sorta di guardia nazionale, cioè su base volontaria qualche decina di migliaia di giovani. Ma il vero problema da cui siamo partiti non è tanto la base volontaria, che poi ci va soltanto chi va di farlo, è la base obbligatoria, è dire, come nella formazione di un cittadino serve anche che passi un periodo della sua vita in un ambiente tot, che noi abbiamo detto scherzando potrebbe essere la caserma, ma qualcosa che assomiglia anche magari più a un servizio civile, in cui si è anche compreso l'ammaestramento all'uso delle armi, l'ammaestramento alla disciplina, l'ammaestramento alla vita militare, l'ammaestramento alle regole e tutte queste cose messe assieme. Ma il vero senso è che sia obbligatorio, perché volontario ci va solo chi va di farlo. Franco. Comandi, sono qua. Volevo raccontare la mia esperienza, che quello che mi ha lasciato il militare praticamente, che comunque di essere soli, cioè dopo che la telefonata dei propri cari che ti rassicuravano, che dicevano tutte le varie storie, buttavi giù il telefono e ti ritrovavi in un ambiente dove te la dovevi cavare da solo. Quello che poi dopo è successo dopo il congedo, insomma, praticamente ti dovevi rimboccare le maniche in qualche modo e cercare di... Sì, diciamo che per la maggior parte dei ragazzi italiani era la prima occasione in cui si staccavano dalla tetta materna. Ma sì. in cui non gli andava sempre tutto dritto, in cui la mattina non gli faceva, non gli rimboccava la sera, non gli rimboccava le coperte qualcuno, in cui dovevano anche pensare che non si mangia sempre il manicaretto che trovi a tavola. Per molti quello era un vero shock. Dove dovevi fare la branda, chi te la chiedeva, non farla troppo bene perché sennò te la facevano rifare, ti dovevi un pochino giostrare. Poi io dopo l'ho fatto, ho avuto una spintarella, mi hanno mandato a Gradisca di Sunzu. Insomma, se un puntavo piedi erano... Sì, avere anche un contatto che qualcuno potesse essere molto traumatico, per altri era anche salutare, con il lato stronzo della forza, aveva un senso comunque, perché è abituato a vivere sempre nell'ovatta. Poi c'erano gli eccessi, naturalmente, c'erano i casi di nonnismo che hanno portato persone al suicidio. Vabbè, alla base e alla fine di tutta questa discussione, vi leggo soltanto l'SMS di una mamma che scrive da Brescia. Caro Nicoletti, le interessa il parere di una mamma, ma è stata tanto felice quando sapevo che mio figlio avrebbe dovuto dire sì signore. Ecco, per questa mamma l'unica occasione che il figlio dicesse sì signore era mandarlo sotto un caporale di giornata. Alla prossima.